La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, questo martedì 15 di aprile e il giorno successivo alle nomine pubbliche delle grandi società, alcune delle grandi, le prime delle grandi quotate a controllo pubblico fatte ieri dal governo Renzi, le nuove nomine, in sintesi estrema quello che ne penso io, perché grandissimo clamore, le donne presidenti, va benissimo, intanto non ce n'è una sola amministratrice delegata, però il punto di fondo qual è, secondo me, è che per Eni ed Enel in realtà gli amministratori delegati sono di grande continuità rispetto agli uscenti precedenti. Un bene averli sostituiti? Secondo me sì, però sono di grande continuità, cioè la tecnostruttura delle due aziende continua a esprimere l'amministratore delegato. Per quello che riguarda Finmeccanica, mia personalissima grande perplessità, perché l'azionista pubblico secondo me continua a non fare bene il suo mestiere. L'azionista pubblico, cioè lo Stato, disse ai manager di Finmeccanica 2 anni fa che avrebbe ceduto il polo Ansaldo Breda, Ansaldo STS, Ansaldo Trasporti. Pensate che Ansaldo Breda solo negli ultimi 2 anni ha perso più di 400 milioni di euro e ha ordini in portafoglio minori delle perdite degli ultimi 2 anni. Se accumulate le perdite degli ultimi 6 anni siamo a miliardi di euro. E adesso il segnale che si dà con l'approdo dell'ex amministratore delegato Moretti di Ferrovie a Finmeccanica è l'esatto opposto, cioè quello di non cedere come il mercato sta aspettando da un anno e mezzo che avvenga, bensì di fare un polo del trasporto all'interno di Finmeccanica. Invece Finmeccanica ha detto al mercato, in linea con quello che gli aveva detto l'azionista pubblica, che sarebbe concentrato su sicurezza e difesa. E quindi perplessità, vedremo, mi sembra che come sempre lo Stato zigzaga e dimentica poi che quelli sono denari con società quotate e quindi i capitali internazionali si grattano la testa quando non capiscono le cose. Detto tutto questo, noi continuiamo in un viaggio coi piedi per terra, vedendo le cose dal basso oggi a proposito di società pubbliche. E quando dico tenere i piedi per terra significa che io inviterei tutti a non dimenticare poi quello che è la realtà italiana. Anche oggi a Cadone, che in provincia di Padova, si è suicidato un dirigente d'impresa preoccupato per la sua azienda. Anche oggi il prefetto di Benevento è stato arrestato per corruzione perché accettava gioielli e denari pubblici in cambio di favori. Cioè la realtà italiana, al di là di quello di cui poi noi giornalisti mettiamo sui giornali con paginate intere, resta quella con un segno di grande preoccupazione per il reddito, l'occupazione, la produzione. E allora in questo viaggio dal basso torniamo a occuparci di un'azienda a controllo pubblico che è stato molto preoccupante, di cui negli ultimi mesi più volte ci siamo dovuti occupare, cioè l'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma. Perché? Perché per effetto dell'ultimo decreto salva Roma, i nuovi denari dati al sindaco Marino, eccetera eccetera, è stata vincolata l'amministrazione del Campidoglio a degli interventi, questa volta di energica riduzione delle perdite. In questo ci sta da una parte il primo annuncio che è venuto qualche giorno fa della cessione di una trentina di società municipalizzate di secondo livello, quelle che non offrono servizi direttamente al pubblico. Ma andando all'ATAC, ricordate, la più grande azienda pubblica di trasporto europeo con poco meno di 12.000 dipendenti e che malgrado 3 miliardi di sussidi pubblici negli ultimi anni ha continuato a perdere cumulativamente in questi ultimi anni 1,4 miliardi, arrivano i primi provvedimenti anche su quello. E quindi sono stati annunciati oltre 300 esuberi di dipendenti, qualche dirigente che se ne va, e in tutto questo abbiamo deciso oggi di parlarne, non solo chiedendo a voi cittadini di mandarci sms e telefonate, ma di sentire l'opinione di una sindacalista all'interno dell'azienda che io seguo con interesse da qualche tempo, perché è al di fuori del grande quadro delle sigle sindacali, si dà da fare a nome degli iscritti, per così dire, e si batte per far capire alla gente ciò che mi sembra sacrosanto, cioè che l'inefficienza, le perdite e così via non è che dipendano poi da chi ci lavora dentro, ma dipendono da scelte sbagliate fatte dai sindaci, dai dirigenti, troppo costosi, troppo amici della politica. Ricordate che nell'ATAC c'è questa indagine che va avanti da anni dalla procura per la falsa bigliettazione con la creazione di una specie di moneta parallela, e anche qui non se ne viene mai a capo. Allora, questa sindacalista di base, presidente di un sindacato che si chiama Cambiamenti, col trattino, che significa cambiare la testa, Cambiamenti M410, chiederemo perché adesso questa sigla sindacale, si chiama Micaela Quintavalle. E a Micaela Quintavalle, quindi, che io ringrazio di essere qui con noi oggi pomeriggio, mi ha molto colpito perché l'ultima proposta che ha fatto è: ma Gli altri dirigenti sindacalisti autisti dell'ATA, quasi 300 persone, perché, per dare un'idea ai cittadini che ci impegniamo tutti, non li mandiamo anche la domenica ai festivi, sono esclusi dai turni domenicali e festivi i sindacalisti, anche loro a guidare, così aumentiamo la produttività? Ecco, ma questo per dare l'idea dell'ultima proposta. Grazie di essere con noi a Micaela Quintavalle. Ma grazie a lei, Oscar, per avermi invitato. Allora sì, questa è una proposta che in realtà non inventa, cioè non propone Micaela Quintavalle. Già qualche anno fa l'USB e un'altra associazione che si chiamava Koala hanno cercato di proporre questa cosa, che sembra talmente banale, perché comunque ci sono 300 figure sindacali, operatori di esercizio, che solo sul gommato, cioè gli autobus, perché questa cosa non avviene in metroferro come non avviene in nessun'altra azienda di autobus cambieri in Italia, fatta eccezione per Torino, lavorano o a turno ridotto, quindi 3 ore e mezzo al giorno, oppure lavorano l'orario pieno, però solamente la mattina, con la domenica e i festivi a casa, quando noi sappiamo benissimo che a Roma nelle domeniche, durante i giorni di festa, la situazione è veramente tragica, cioè i cittadini ci dicono che aspettano anche 40-50 minuti alle fermate, per cui fare in modo che tutti gli operatori di esercizio lavorino ruotando, diciamo, la turnazione, significherebbe sia dare ai lavoratori la possibilità di un eventuale giorno di domenica di congedo da passare con le proprie famiglie, sia però soprattutto dare la possibilità di incrementare un servizio che in queste giornate è veramente disastroso. Per cui insomma a noi sembra una proposta banalissima, in realtà quando raccolsero le firme USB e Koala, l'associazione Koala, la proposta non venne accettata. Perché non venne accettata? Perché qual è il controragionamento dei delegati sindacali delle confederazioni nazionali presenti in ATAC? Assolutamente, loro dicono che hanno bisogno di avere tanto tempo a disposizione per poter fare il lavoro del sindacato, dicono che la domenica e i festivi, io proprio mi sono trovata 15 sindacalisti che mi sono venuti addosso in maniera direi non violenta, però insomma loro dicevano energica, no, diciamo così. Energica, ecco, loro dicevano no, perché tanto la domenica i festini in rimessa non c'è nessuno, quindi non ha senso che io faccia il mio lavoro di sindacalista. In realtà non è così, cioè noi lo abbiamo dimostrato, noi stiamo facendo sindacato da gennaio, ognuno fa il suo occupando tutto il suo tempo libero, perché comunque fare sindacato è una missione, e in questo momento in cui per problemi economici, per spending review, per decreto Salva Roma non si può assumere, la prima cosa che dovrebbe fare un sindacalista è dire lui stesso ok, vengo ad aiutare i colleghi facendo il turno pieno. Invece loro che cosa fanno? Minacciano i colleghi che firmano, tentano di dire bugie, delle cose assolutamente false, del tipo che verrebbero tolte delle turnazioni fisse, insomma questo assolutamente non sta né in cielo né in terra. Io sono convinta che i vertici aziendali questa volta accoglieranno insieme a Marina D'Improta la nostra proposta, anche perché voi l'avete pubblicizzata molto, quindi insomma vai a spiegare ai cittadini che c'è una modalità per cui a costo zero si possono incrementare i servizi di domenica, e vagli a spiegare che non lo vuoi fare perché ai sindacalisti invece fa piacere stare la domenica e festivi a casa, quello fa piacere a tutti. Ma le posso fare una domanda? Questi colleghi che fanno sindacato da lungo tempo e sono magari in confederazioni nazionali, nel settore trasporti, il trasporto pubblico locale, i sindacati nazionali, come è possibile? Cioè si sono così tanto distaccati dalla realtà, secondo lei, da non capire che è una roba che piacerebbe alla gente, che è anche giusto fare, come lei ci ha spiegato? Cioè sono troppo presi dal loro compito che non riescono a capire? A me sembra una cosa elementare, non so come dire. Ufficiosamente più di qualcuno mi ha detto: se mi tolgono il turno agevolato e la turnazione con la domenica e festivi a casa, io smetto di fare sindacato. Quindi in realtà la cosa che dispiace è che il 70-80% di queste persone, perché poi c'è un 20-30% che invece lo fa veramente per passione, stanno lì a fare sindacato solo per problemi personali, per ascese aziendali, per carriere personali e per avere la domenica e festivi a casa. Senta, ma posso fare una domanda? Aspetti un secondo, siccome lei ci dice che sono un 20-30% nella sua stima sui 300 quelli che lo fanno per passione, ma poi nel corso del lavoro, quando lei va nei depositi, prende la vettura e la porta in circolo con i colleghi, il più dei colleghi solidarizzano con lei, al di là che si siano iscritti o meno al suo sindacato, oppure la pressione è: ma perché rompi le scatole? Ah, no, rispetto a questa cosa, se noi abbiamo raccolto migliaia di firme, quindi rispetto a questa cosa proprio ci telefonano, cioè, c'è anche chi ti dice vuoi solo farli lavorare la domenica, io li impiccherei tutti, e lì siamo nell'eccezione più grande, quello che cercavo di spiegarle prima. Cioè il discorso è che se noi li mettiamo a guidare come gli autisti, rimangono a fare i sindacalisti, come avviene in Metroferro. Se io domenica sono andata alla Roma a Giardinetti, mi si è presentato un RSU della CISL a mezzanotte e mezza di domenica sera, perché io sono andata a vedere lì, insomma, anche per prendere le firme, e io ci sono rimasta, dico, ma che cosa sta facendo lei qua? Che lui si complimentavano, brava per quello che fai. Io gli ho detto, che cosa sta facendo lei qui di domenica sera? E lui mi ha risposto, noi lavoriamo sempre, come fate voi? Quindi questo... non si capisce perché sul ferro sì e sulla gomma no, insomma. Va bene, adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo subito con Micaela Quintavalle, sindacalista di base nell'ATAC, che ha enormi problemi perché deve buttare fuori, ohimè, adesso inizia con gli esuberi, e deve, oltre che i dirigenti, voglio sperare, troppi e troppo pagati, e dal basso bisogna anche dare atto che c'è chi al lavoro tenta di dare una risposta che ai cittadini sia in linea con le aspettative della gente, che paga troppo e ha un servizio con l'ATAC che, ohimè, non funziona. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati dopo l'interruzione sull'informazione stradale. Stiamo parlando di un'azienda pubblica, Roma, la capitale, la più grande azienda pubblica di trasporto, l'ATAC. Ne abbiamo parlato più volte, abbiamo indicato quali erano i problemi nel bilancio per gli errori tragici fatti da troppi sindaci negli anni, con troppi dirigenti amici della politica, e adesso abbiamo con noi Micaela Quintavalle, presidente di questo sindacato di base, si chiama Cambiamenti M410. Micaela Quintavalle, ma perché M410? Che cos'è, la sigla di una linea? No, Movimento 410 novembre, perché quando noi ci siamo uniti tutti quanti abbiamo deciso di effettuare solo il lavoro ordinario e non quello straordinario. Quello che è importante, Oscar, che io vorrei puntualizzare, è che se noi quindi teniamo solo i sindacalisti che vogliono davvero fare sindacato, forse non firmeranno accordi per cui noi, anche a monte di una diagnosi medica, dopo 180 giorni di malattia andiamo a mezza paga. Forse non ci saranno situazioni dove abbiamo 112 giorni di ferie arretrate, cioè comunque ci sarebbe la tutela del lavoratore. In questa azienda abbiamo una piramide che poggia sulla punta, per cui noi abbiamo tantissimi dirigenti, che è vero, ora Marino ne ha mandati via 3, forse ne verranno mandati via altri 27, logicamente con i contratti bloccati, quindi comunque andranno via con buone uscite molto importanti. Quindi, insomma, qui bisogna invece tentare di salvaguardare il lavoratore operativo. Ecco perché io sono d'accordo con la scelta di Improta: nessuno deve essere mandato via, non le lettere di mobilità volte al licenziamento, ma assolutamente prendiamo questo personale amministrativo che è in totale esubero per colpa delle amministrazioni precedenti. Non ci sono colori, non ci sono bandiere. Qui ha sbagliato Veltroni, ha sbagliato Rutelli, ha sbagliato Alemanno, hanno sbagliato gli amministratori delegati. Cioè, il discorso è che questa è un'azienda strettamente legata alla politica, è questo che dispiace. Esatto. Ci sono le risorse interne per poter fare andare benissimo il servizio di trasporto pubblico affinché rimanga pubblico, come i cittadini hanno deciso nel referendum del 2011, e invece a me sembra che, da quello che leggiamo sui giornali, l'ATAC è sempre solo stata un bacino di voti e il bancomat di partiti politici, e questo dispiace tantissimo, insomma. E questo, io concordo con lei con l'analisi. Il problema è adesso che, quando lei cita in prota, per capirci, per chi non è romano, è l'assessore, ma detto questo, di fronte al problema degli esuberi, perché si tratta, adesso sono stati individuati più di 300, circa 330 figure al di là dei dirigenti tra gli esuberi, lei dice non si ricorra alla mobilità, ma vediamo che cos'altro fare. Lei deve anche capire che per i lavoratori privati, disoccupati privati, questo è un tema sensibile, cioè si ha sempre l'idea che il dipendente di un'azienda pubblica, per il quale nell'ordinamento è prevista la mobilità, quindi tutte le procedure, seppure con qualche caratteristica specifica analoghe a quelle del lavoro privato, però il privato che poi perde il lavoro ha sempre l'idea che il dipendente pubblico resta intoccato. Allora, quando lei adesso dice non mettiamo in mobilità gli esuberi dell'azienda, che cosa in concreto ha in mente? Come si può pensare di evitare la mobilità? Io dico subito, Allora, noi abbiamo un esubero di personale amministrativo che è impressionante e abbiamo una carenza di personale viaggiante che è altrettanto sorprendente, per cui a me va benissimo che per ora ti dicono i 125 interinali che sono pronti, formati, l'azienda ci ha investito, non possono essere assunti, ora li richiamerà una società interinale, mi sembra l'Orienta, non ricordo il nome, e tenteranno poi di internalizzarli successivamente, ok? Io però dico che guidare un autobus, già un treno è un pochino più difficile, però non si tratta di un intervento a cuore aperto, voglio dire, guidare un autobus o guidare un treno è una cosa che possono fare tutti. Allora io dico, innanzitutto, come suggerisce in Prota, parte del personale amministrativo bisogna metterlo a controllare i biglietti, perché qui non c'è il conteggio dei passeggeri, c'è un'evasione che loro dicono sia del 40%, io ora questo non lo so, mi sembra un po' troppo alto, mi sembra che si voglia giustificare il fatto che l'ATAC abbia 1.750 milioni di debito, perché c'è qualche portoghese che non paga, che non paga il biglietto. Le stime, aspetta, intervengo su questo, perché ci sono stime comparate, l'evasione a Roma è elevata, però io concordo con lei, diciamo che è sopravvalutata in quella cifra di un 12-13%, perché le indagini che sono state compiute, vediamo anche quello perché che viene serve detto, a coprire i buchi fatti dai dirigenti nei loro conti annunciati. Però detto questo, lei dice spostiamo gli amministrativi e con un corso mandiamoli a guidare le vetture, ho capito bene? Ok, sì, noi abbiamo proprio bisogno, a noi servono 1000 unità su personale viaggiante, abbiamo i verificatori che sono 75, subiscono vituperi continui, attacchi continui perché comunque sono troppo pochi. Allora incrementiamo il personale che abbiamo, noi abbiamo 11.700 dipendenti, Oscar, nemmeno l'Italia, abbiamo più dirigenti che nemmeno le grandissime aziende, cioè non esiste, qui servono molti meno dirigenti, servono molti più operai, molti più meccanici, molti più macchinisti e molti più autisti. Perché non far diventare queste persone, cambiare ruolo a queste persone con un'adeguata formazione, un adeguato corso? Tutti possono guidare un autobus, cioè guidare un autobus è banale, fare il verificatore è banale, lo può fare qualsiasi persona. A me che Marino dica alla cubista non posso chiedere di guidare un autobus o un tram, ma perché? Ma chi ha la cubista che noi non abbiamo? Cioè anche come donne noi ci siamo sentite profondamente offese, sì, da questa La battuta era infelice anche per l'aspetto di genere, per così dire. A parte il fatto che se fossi uno del personale amministrativo dichiarato in esubero, non vedo perché poi devo a mia volta sentirmi dire che sono come una cubista. Sa che c'è, Oscar, che gran parte del personale amministrativo è stato messo lì dai sindacalisti. Esatto. Gran parte del personale amministrativo presenta ex sindacalisti. Esatto. Anche noi sappiamo benissimo che il personale amministrativo finisce di lavorare il venerdì all'una e ritorna il lunedì. Se deve andare in bagno ci può andare in qualsiasi momento, noi non abbiamo i bagni, cioè noi andiamo dietro ai prati, andiamo sui copertoni degli autobus, tanto i maschi quanto le femmine, quindi sicuramente è una situazione molto più drammatica per loro, no? Hanno l'aria calda d'inverno e hanno l'aria fresca d'estate. Cioè, insomma, lei lo sa che capisco... molti dei dipendenti amministrativi di fronte all'idea di guidare una vettura, questo l'ho letto sul Messaggero, non ho fonti dirette, hanno detto al giornalista del Messaggero no, piuttosto allora dateci una buona uscita, ma no, cioè lei lo sa questo. Ci credo, ecco, c'è tanto più comodo. Invece noi diciamo questo è il lavoro più bello del mondo, metteteci in condizioni di farlo bene, integrando il personale, mettendoci questi benedetti bagni, che anche questa è una guerra che dura da anni, e loro ti dicono ma prima era solo un lavoro maschile, a parte che voglio dire non è che sono tutti, per parlare a Roma, il Monnezza, cioè che veramente tutti sono abituati a fare la pipì dietro l'albero, comunque le donne ci sono dal 2000, cioè qui non è possibile che ci sono 250 capolinea senza servizi igienici, ma di queste cose i sindacalisti non gli importa niente. Brava. Perché comunque loro lavorano dalle 6 alle 9 e mezzo, la mattina ci sono i bar aperti, non hanno la più pallida idea di che cosa significhi cambiare un assorbente o fare la pipì a luna di notte in un posto buio, scuro, dove non c'è luce, dove comunque non c'è un servizio igienico. Ecco noi a cosa puntiamo, puntiamo a fare il lavoro del lavoratore per capirne più a fondo le problematiche, e il sindacalista è questo che deve fare, non può stare la domenica e festivi a casa o fare una riunione serale due volte l'anno, o comunque stare poi, lui lavora fino alle 9:30 e poi sta un'oretta e mezza a cambiare i turni in rimessa, no? Io penso che il sindacato degli autisti, degli autoferrotranvieri, dei macchinisti lo si debba fare nelle piazze e in mezzo alle strade, a tutte le ore del giorno e della notte, questo crediamo noi, insomma. Allora, io devo dire la verità, io non so se fossi dipendente dell'ATAC se mi iscriverei a cambiamenti oppure no, però a me che ci siano persone che dal basso richiamano che il sindacato deve innanzitutto occuparsi dello scandalo di 250 capolinea senza bagni locali per le donne e gli uomini che guidano le vetture. A me sembra una cosa su cui tutti dobbiamo riflettere, perché non è vero che sono tutti uguali, non è vero che tutte le responsabilità dei sindacati sono uguali, non è vero che i lavoratori hanno responsabilità che hanno avuto i dirigenti e la politica, e forse se fossimo in grado anche di ragionare meglio con chi nelle aziende disastrate tenta di cambiarle dal di dentro utilizzando le risorse, capovolgendo i criteri, a cominciare da come si fa il sindacato, secondo me questo paese andrebbe meglio. Ma lei perché ha deciso di diventare sindacalista dal basso, Michele? Guardi Oscar, qui grazie per questa opportunità che mi dà, perché ancora oggi, cioè, io non credevo che il più grande ostacolo della realizzazione dei diritti degli autoferrotranvieri fossero gli autoferrotranvieri stessi. Ancora oggi c'è qualcuno che dubita, cioè io ho dimostrato in tutte le forme che non ho altri interessi, ho rinunciato a dei posti in azienda, ho rinunciato a delle proposte che mi sono arrivate dalla politica, ho rinunciato al Grande Fratello perché per chi mi dice che comunque io ho solamente mire da attrice, cioè io sono una studentessa di medicina, ero un autista dell'ATAC che si batte per i diritti degli autisti. Questa realtà mi è esplosa tra le mani, in realtà noi avevamo solo organizzato una forma di protesta, poi i colleghi hanno chiesto prima un'associazione, poi un sindacato, e io ho risposto a questo, ma a me, io vengo accusata di avere dietro un parametro 220. Va bene, lei viene accusata, però Michaela, posso dirle una cosa? Sì. Non molli, perché secondo me se andrà avanti con tutti quelli che le sono a fianco, per i romani sapere che nell'ATAC c'è gente così, non voglio criticare tutti gli altri sindacalisti, però è lo spirito con cui forse ricostruiamo tutti dal basso un po' le cose meglio. Grazie a Michaela Quintavalle, e voi continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.